Il consueto benvenuto su Rock FM dalla voce di Marco Gravelli inizia anche per questa sera il nostro secondo appuntamento di Hard and Heavy, offerto da Mariposa Dischi Corso Loli, numero 1 qua a Milano. Prendiamo sempre in esame il passato del mondo hard rock e heavy metal nella prima parte, con alcuni lavori usciti magari da qualche mese, e poi tutte le novità e le metal news nella seconda mezz'ora del nostro appuntamento. Ricordo che questo spazio è in onda ogni sera dal lunedì al venerdì, e quello del venerdì è generalmente dedicato ai album, ai CD dal vivo, e quando ci sono anche alle interviste, ce ne saranno in questo mese di gennaio. Partiamo con il primo prodotto, una band americana di Chicago, risale addirittura al 1982. Si chiamavano Eric Steele, creati dal cantante chitarrista Bruce Hatfield e dal chitarrista solista Dave Anderson. Alle spalle hanno ben tre album: l'album d'esordio, risalente al 1984, Infectious del 1988 e infine Back for More, uscito nel 1992. Dal loro secondo album andiamo a proporvi il brano che chiudeva il lavoro da questo vinile, intitolato appunto Infectious. Il motivo si intitola After Midnight. 1988 la data di pubblicazione di questo secondo lavoro per gli Eric Steele, grande spazio naturalmente dedicato agli assoli di chitarra. Passiamo alla prossima band, abbandoniamo l'America, lasciamo Chicago e andiamo direttamente in Inghilterra con il gruppo che è ancora in attività, pensate, si chiamano Clovenhoof, hanno pubblicato 4 album in studio più un live. Nati nel 79 grazie al bassista Lee Payne e formato da 4 elementi. All'inizio ognuno dei musicisti si identificò con uno dei 4 elementi, cioè aria, terra, acqua e fuoco, con tanto di costumi. Dopo un EP nel 1982 arrivano alla pubblicazione del primo album che portava il loro nome, però abbandonando i costumi a favore di un abbigliamento decisamente più heavy metal, visto il periodo, siamo nel pieno della new wave of British heavy metal. Segue anche il cambio di cantante e la pubblicazione di un live, e poco tempo dopo la band si scioglie. Così il leader Lee Payne riforma il gruppo con nuovi musicisti, con i quali incidono il secondo album dal titolo Dominator. Dopo ancora un album del 1989, la band si riscioglie per la seconda volta. Sarà nel 2003 che a sorpresa, ancora Payne, riforma il gruppo e partecipa ad un festival l'anno successivo. Nel 2006 è uscito anche il loro quarto album, Eye of the Sun, e lo scorso anno hanno cominciato a scrivere le canzoni per il prossimo lavoro che si intitolerà Throne of Damnation, la cui uscita è prevista per questo 2008. Inoltre la band, ve lo anticipiamo, suonerà qui in Italia al festival Keep It True, che si terrà il prossimo 23 febbraio presso il Buddha Café di Orzi Nuovi in provincia di Brescia. Ci saranno anche gli All-Star, i Manila Road, i Sabotage, solo per citare alcuni nomi di questo festival. Ebbene, dal loro primo album andiamo ad ascoltare questo brano molto lungo che va a chiudere una facciata, si intitola Gates of Gehenna, dall'album Clovenhoof per l'omonima formazione. High! E questo era il sound dei Clovenhoof, un gruppo storico della New Wave British Heavy Metal, magari un po' difficile forse da reperire il loro lavoro in questione, almeno su vinile, non so francamente se l'abbiano poi ristampato su CD, ma penso e spero di sì. Gates of Gehenna, il brano che vi ho proposto. La prossima band è anch'essa storica, però li ascolteremo con un prodotto recentissimo, uscito nel mese di novembre, questo album dal titolo Appointment with Death, appuntamento con la morte, per i Lizzie Borden, storica band heavy metal americana nata nel 1983 grazie al leader cantante Lizzie Borden. L'esordio vero e proprio arriva 2 anni dopo con Love You to Pieces. Il gruppo si scioglie agli inizi degli anni 90 per riformarsi 9 anni dopo e pubblicano anche un nuovo album dal titolo Deal with the Devil, che gli valse un tour di supporto a Malmsteen. Dal 2005 al 2006 cambiano il nome in Starwood, con il quale pubblicano un album. Siamo nel 2006 e ritornano ad essere i Lizzie Borden e finalmente hanno pubblicato questo album, come vi dicevo, nel novembre scorso, uscito su etichetta Metal Blade. L'album è stato mixato da Eric Rutan, che ha già lavorato con i Morbid Angel. La band è composta da 4 elementi, tra i quali spicca il chitarrista Ira Black, che ha suonato in un album dei Vicious Rumors, e per l'occasione sono intervenuti diversi special guest, tra cui George Lynch, Dave Menichetti degli Y&T, Corey Bellieu dei Trivium e Johannes Hansson dei Silver Mountain. Li proponiamo, li ascoltiamo con questo brano che si intitola Bloody Tears. Sono i Lizzie Borden. Bloody Tears, The Appointment with Death, il gruppo storico dei Lizzy Borden, ritornati con questo album. Invece noi torneremo nel passato, andremo nella metà degli anni 70 ascoltando un estratto da Bad Reputation dei Thin Lizzy, gruppo che arriva dall'Irlanda, precisamente da Dublino, autore di un ottimo hard rock melodico, il cui leader è stato il bassista Phil Lynott, scomparso nel 1986. La band nasce nel 69, dopo aver pubblicato un singolo, arrivano all'esordio nel 71 con l'omonimo album. Il grande successo a livello internazionale arriva nel 76 col celebre Jailbreak, che gli valse un tour con i Rush, gli Styx e i Journey. Da quest'album fu stampato anche il famosissimo singolo The Boys Are Back in Town, successo bissato soprattutto in Inghilterra con il successivo lavoro Johnny the Fox, pubblicato nello stesso anno. Purtroppo però, durante un tour di supporto ai Queen, uno dei due chitarristi, ossia Robinson, si infortuna ad una mano e sarà costretto a ritirarsi. Il suo posto viene preso da Gary Moore, che rimarrà nella band sino al 1978. Il successo è sempre maggiore, tanto che l'album Bad Reputation del 77 arriva alla quarta posizione in Inghilterra. Visto l'ottimo momento, pubblicano anche un live album che vi ho già proposto nell'appuntamento del venerdì, cioè Live and Dangerous. Importante è il 1983, quando il leader e compositore Philip Lynott sciolse il gruppo per dedicarsi a progetti paralleli, progetti solisti. Purtroppo però il 4 gennaio dell'86 lo stesso Philip muore dopo essere stato in coma per un paio di settimane per overdose. La band si è riformata 10 anni dopo, nel 1996, con al basso Marco Mendoza, e negli anni sono avvenuti diversi cambi, tanto che l'unico membro considerato storico del gruppo è il chitarrista Scott Gorham, in formazione dal 1974. Li ascoltiamo dall'album Bad Reputation con l'omonimo brano Thin Lizzy. Bad Reputation, grande motivo, grande band, questa dei Thin Lizzy, anche la prossima, perché è la band che ci permette di chiudere questo spazio di Hard and Heavy dedicato al passato. Sono i Samson, band inglese creati nel 77 dal chitarrista Paul Samson e nella cui lineup spiccava in due album la presenza del cantante Bruce Bruce, cioè Bruce Dickinson, che in seguito sarebbe entrato a far parte degli Iron Maiden. Nella primissima lineup c'era da segnalare un altro Iron Maiden, cioè il batterista Cliff Burr, che nel 1979 lascerà i Samson per entrare nella band degli Iron. Al suo posto entra Thunderstick, che aveva militato per un breve periodo di tempo anche lui negli Iron Maiden. Dopo due singoli arrivano alla pubblicazione del primo album, Survivors, autoprodotto. Siamo nel 1979. Successivamente notano in un locale Bruce Dickinson, che all'epoca si faceva chiamare Bruce Bruce. Colpiti dalla sua presenza e dal carisma sul palco, gli propongono di entrare in formazione. Con lui arriva anche la notorietà, con il secondo album Head On del 1980. Il terzo lavoro, si intitola Shock Tactics, esce nell'81 e durante il tour di supporto dell'album il batterista Thunderstick lascia la band. Finito il tour, Dickinson se ne andrà per entrare negli Iron Maiden. Viene così scelto un nuovo cantante, con il quale pubblicano il quarto album, Before the Storm. Seguiranno altri due vocalist e diversi saranno anche i cambi di line-up. Parallelamente la loro notorietà andrà velocemente a scendere. La band si scioglierà nel 1984 per essere poi riformata alla fine dell'87, mentre cesserà di esistere nel 2002, dopo la scomparsa del fondatore Paul Samson. Andiamo a prendere in esame il secondo lavoro con Bruce Dickinson, Shock Tactics. Questo era uno dei brani migliori, Bright Lights, sono i Samson. Sicuramente l'avrete riconosciuta, la voce appunto di Bruce Dickinson con i Samson, Bright Lights, il brano dal lavoro intitolato Shock Tactics. Chiudiamo questa nostra prima parte di Hard and Heavy con un gruppo che arriva dalla Svizzera, composti da sei elementi, è il sesto album, si chiamano Crystal Ball, li andremo ad ascoltare con una ballad da questo nuovo album dal titolo Secrets. Il gruppo nasce nel 1995, si chiamavano all'epoca Cherry Pie ed era una cover band, e poi l'hanno cambiato nell'attuale Crystal Ball quando cominciano a scrivere brani propri. Il debutto arriva con l'album In the Beginning nel 1999, la prima notorietà arriva con il successivo Hard Impact. Seguono tour con Dokken, Udo, Doro, Crocus. Con gli album Helvetia e Time Walker sono anche entrati nelle classifiche ufficiali svizzere. Questo nuovo lavoro esce per l'etichetta IFM Records e si intitola Secrets, prodotto da Michael Borman, mixato da Hakim Köhler, che tra gli altri ha già lavorato con Primal Fear, Brainstorm e Udo. Il pezzo, come vi dicevo, una ballad, si intitola Dreaming of You. Dreaming. inizio di seconda parte di Arden Devi con questa band che arriva dalla Svezia. L'album ad esordio per questi Phase Shift, che sono ex componenti del gruppo death metal Eternal Oath. Avevano pubblicato ben 3 album con quel nome. Con questo nome invece hanno voluto cambiare anche sound, molto differente dal death metal precedente, a favore di un heavy metal molto più oscuro e melodico. L'album si intitola Reconcile, è già uscito nel mese di novembre, fine novembre, in Scandinavia, e soltanto ora viene distribuito nel resto dell'Europa. Ci sono 12 brani in totale, vi ho proposto My Own Demise. La prossima band è decisamente già più nota e conosciuta, perché è il 7° album uscito alla fine del mese di dicembre, Seven Witches, gruppo heavy metal americano del chitarrista Jack Frost, il cui vero nome è Jack Dempsey. Ha militato anche nei Metalium e per un periodo di tempo anche nei Savatage. Il gruppo nasce grazie al volere appunto di Jack Frost nel 99. Il suo esordio lo ha lo stesso anno, nel 99, con l'album Second War in Heaven. Il gruppo gode di una certa notorietà, anche se non ha mai pubblicato un vero e proprio capolavoro. Diversi sono stati i cambi di line-up, soprattutto nei cantanti. Hanno militato Bobby Lucas, Way Black, attualmente nei Crimson Glory, James Rivera, attualmente negli All Star, e l'attuale cantante Alan Tecchio, in formazione dal precedente lavoro. In tema di line-up c'è anche da segnalare la presenza al basso di Joy Vera, ex Armored Saint e Fate's Warning. Questo nuovo album si intitola Deadly Sins, è un concept sui 7 peccati elencati da Gandhi e si compone di 10 brani. Io vado a proporvi la traccia numero 3 da quest'album. Il motivo che andiamo a proporvi si intitola Signs. Sono i Seven Witches. Appuntamento con le news metal anche per questa sera. Iniziamo con gli Stream of Passion, band creata da Luke Hassen, che ha abbandonato lo scorso marzo. Sta lavorando però al secondo album. Lineup ora stabile a 6 elementi, con alla voce la brava messicana Marcela Bovio. Sepultura, la band brasiliana, ha reso noto che sta lavorando ad un nuovo album, uscita prevista per la seconda parte di questo anno. Invece il 15 di marzo sarà nei negozi il nuovo album per i Korkiplani. La folk metal band finlandese si intitolerà Korven Kuningas e sarà pubblicato dalla Nuclear Blast. Realizzato invece il video di supporto al secondo singolo, che anticipa il prossimo terzo album del progetto Avantage del cantante tedesco Tobias Sammet e degli Ed Guy. Il lavoro si intitola The Scarecrow, il singolo che andiamo a proporvi si intitola Carry Me Over. E prossimamente lo avremo anche in intervista, un'intervista speciale effettuata dalla nostra Claudia, proprio per parlare del suo futuro e di questo album, di questo progetto Avantage. Lo ascoltiamo quindi con il pezzo Carry Me Over. Carry Me Over, registrato quindi il video per questo nuovo secondo singolo che anticipa il prodotto The Scarecrow per gli Avantage, con alla voce e al basso Tobias Sammet, chitarre Sasha Peth, batteria Eric Singer e tantissimi altri special guest di brano in brano. Abbandoniamo gli avanteggi, ripeto, in futuro, sempre in questo mese di gennaio avremo modo di proporvi l'intervista, e passiamo invece agli Angel of Eden, una nuova project band creata dal chitarrista e leader degli Artention, cioè Roger Staffelbach. Musicalmente si tratta di un power metal di stampo neoclassico che a volte richiama il sound di Yngwie Malmsteen. La band è completata dal cantante Carsten Schultz, ex Domain e attualmente Evidence One, il batterista degli Evidence One, il tastierista italiano Misteria e al basso come ospite il bravissimo Steve Di Giorgio. In tema di ospiti vi è anche John West, il cantante degli Artention ed ex Royal Hunt in una canzone, Dave Snackle, ex Manowar, Ferdy Dunberg della band di ex Rudy Pell. L'album si intitola The End of Never, viene pubblicata da un'etichetta spagnola che è la Lion Music, presenta 10 tracce prodotte dallo stesso Roger, davvero niente male. Il pezzo che abbiamo scelto da questo The End of Never, questo è il titolo dell'album, loro sono gli Angel of Eden, il pezzo è Stampede. Step from l'avrete riconosciuta, primo perché è un grande pezzo degli Aerosmith, questa è Back in the Saddle. Secondo, forse qualcuno avrà riconosciuto la voce di Axl Rose. E terzo, è uno dei brani presente nel nuovo album di Sebastian Bach, proprio lui, il già l'ex cantante di Skid Row, un album da titolo Angel Down, uscito già da un po' di tempo, con mega produzione che è quella di Roy Zedd, che ha già lavorato per Rob Halford e Bruce Dickinson, è presente in quest'album e ci sono tantissimi special guest, oltre al già citato Axl Rose in tre brani, Bobby Jansobeck alla batteria, ex Ice Earth, ex Riot ed ex Rob Halford, Rob De Luca al basso, Metal Mike chitarra solista, che ha già suonato anche lui con Rob Halford, e l'altra chitarra, quella ritmica, è quella di Johnny Chromatic, e naturalmente Sebastian Bach alla voce. L'album si intitola Angel Down, questa è comunque l'unica cover presente. Chiudiamo con un gruppo olandese di thrash metal, si chiamano Legion of Damned. Questo nuovo album si intitola Field Blade, ha già ottenuto massimi consensi e voti e recensioni in Germania, anche se l'album non è propriamente nuovo, in quanto è la riedizione completamente rimasterizzata di un loro vecchio album, più precisamente Elegy for the Weak, pubblicato nel 2003 quando ancora si chiamavano Occult, poi hanno cambiato il nome in Legion of the Damned. Ci sono però due pezzi nuovi, un bonus DVD della durata di un paio d'ore ed una nuova copertina. Vi lascio con il brano dal titolo Slut of Sodom, estratto da questo loro Field Blade. Vi ringrazio per avermi seguito sino a questo punto, un grazie a Simone, il nostro autore, Mariposa Dischi Corso Lodi numero 1, il nostro sponsor, e Claudia invece, che arriverà tra breve a ruota a seguire dall'appuntamento di Arden Devi, che ritornerà a voi con la voce di Marco Gravelli domani sera. Ciao ciao. Which is property of Massacre Records. Oh!